9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino, che vi ricorda il numero di telefono al quale darci le vostre osservazioni, le vostre decisioni. Avete deciso di comprare o meno approfittando degli incentivi dati dal governo per le nuove auto, e verso quali tipi di automobili vi orientate, che cosa chiedete in questa crisi così terribile che riguarda il modello economico ma colpisce durissimamente l'auto, che cosa chiedete all'automobile ideale per i prossimi vostri anni? Ecco, chiamato 800 24 00 24, io vi ricordo, prima di presentarvi i nostri ospiti, qualche dato. Giugno noi abbiamo avuto un buon andamento delle immatricolazioni di nuove automobili in Italia, perché gli incentivi del governo, quelli deliberati a febbraio, hanno iniziato a fare pieno effetto non solo perché erano vigenti sin da subito, sin dai 30 giorni una volta approvato il decreto, però le case automobilistiche sono arrivate a poter finalmente produrre e a poter dare ai concessionari tutti i tipi di veicolo che rientravano negli standard eco-incentivati, e quindi noi abbiamo avuto un mese di giugno che ha avuto una crescita sul mese precedente di immatricolazioni del 12%, cioè stiamo tornando verso una quantità media attesa entro il 2009 di nuove immatricolazioni sui 2 milioni di veicoli l'anno. E se guardiamo alle immatricolazioni dall'inizio dell'anno alla fine di giugno di quest'anno e le paragoniamo al semestre del 2008, vediamo che c'è un miglioramento del 4%. E insomma è un miglioramento abbastanza buono, tenuto conto che l'andamento è più o meno simile in tutta Europa, anche se in Europa il paese che più si sta avvantaggiando degli incentivi, che erano più ricchi, più generosi di quelli offerti dal governo italiano, è la Germania, che sta registrando un più 40% al mese quest'anno, negli ultimi due mesi, rispetto ai mesi precedenti. Quindi il mercato tedesco si sta molto rafforzando. Detto questo, la crisi europea resta una crisi di sovracapacità nel settore dell'auto. Oggi vi segnalo che sul Wall Street Journal c'è un editoriale, lo trovate a pagina 15 dell'edizione europea, firmato da Neil Winton, il cui titolo è The Slow Subsidized Death of Europe's Car Makers, che naturalmente si traduce con la lenta e iper sussidiata morte dei produttori europei di automobili. La tesi al centro di questo editoriale, che io condivido dalla prima all'ultima parola, è che continuando a dare incentivi dopo incentivi, con la giusta e legittima preoccupazione che altrimenti crolli il mercato dell'auto e gli occupati in questo importante settore, noi indurremo le case automobilistiche in Europa a continuare a rinviare quelle decisioni di razionalizzazione e di riduzione più efficiente della capacità produttiva, senza di cui non riusciranno mai a stare sul mercato. In ogni caso, presentiamo i nostri ospiti di oggi. Prima delle vostre telefonate, vi ho detto che parlavamo di una casa che va molto bene, che ha quattro parole, inizia per F e non è la Fiat, infatti è la Ford. E per questo abbiamo ospite oggi insieme a noi Gaetano Torel, presidente amministratore delegato di Ford Italia. Buongiorno Torel. Buongiorno. E poi abbiamo Luca Ciferri, che è un validissimo giornalista di Automotive News Europe. Buongiorno Ciferri. Buongiorno. E Claudio Nobis, che per moltissimi anni è un decano del giornalismo dell'auto, da Repubblica, ad altre testate, anche alcune che ho diretto io recentemente, con non troppa fortuna, e lui però mi dava lustro. Buongiorno Nobis. Eccoci, quando dicevo Ford, la prima domanda è per Torel. Stiamo parlando di una casa che nel giugno di immatricolazione italiana, se si fa il paragone 2009-2008, guadagna addirittura il 31%, insomma, sul giugno 2008. Insomma, la Ford sta battendosi molto bene in Italia, battendosi molto bene in Europa, ed è soprattutto la casa automobilistica che tra le tre grandi americane rispetto a General Motors e Chrysler non ha dovuto piegarsi a Chapter 11, non è andata in fallimento, non è oggetto dell'acquisizione da parte di Fiat come Chrysler. È vero che negli Stati Uniti in pochissimi giorni, 42-45, sono già uscite dal Chapter 11, dalle procedure concorsuali, però insomma Ford non ha dovuto chiedere l'ammontare di decine e decine e decine di miliardi come General Motors, ha avuto aiuti anche lei, ma insomma non è fallito dita e non nello stesso modo. Perché? Perché si era ristrutturata prima, era reduce da un 2006 molto difficile, e quindi ha preso la decisione di entrare in profondità nella logica dei propri costi, dei propri volumi e dell'organizzazione del proprio processo produttivo molto prima delle altre, perché questa appunto secondo me è una crisi da eccesso di capacità produttiva più che da crisi della domanda. Detto tutto questo, mi taccio per il resto della trasmissione. Torel, qual è la chiave per avere buoni risultati di questo tipo in Italia e in Europa? C'è anche una capacità di saper leggere prima e meglio degli altri su che tipo di nuove tecnologie, di nuovi veicoli va questa domanda modificata di un mercato un po' terrorizzato da questa crisi così dura? Qual è la chiave? Ma innanzitutto la chiave rimane esclusivamente il prodotto. Noi siamo, tutte le aziende automobilistiche vivono di prodotto. Noi siamo stati sicuramente, possiamo dirlo, fortunati, nel senso che abbiamo potuto affrontare questo periodo così difficile nel mercato italiano e in quello europeo con due novità di prodotto fondamentali e perfette per questo mercato, soprattutto per l'Italia. Mi riferisco ovviamente alla nuova Fiesta e alla nuova Ka. Pensiamo che in Italia il 60% del mercato è fatto di macchine piccole e noi abbiamo potuto lanciare due prodotti totalmente nuovi, molto belli, prodotti che hanno catturato il cuore degli italiani, e siccome in Italia per fortuna le automobili significa ancora emozione, significa gioia più che razionalità, due prodotti totalmente nuovi ci hanno aiutato. Ovviamente insieme al prodotto, secondo me, altri due elementi hanno fatto la differenza. Il primo sicuramente la nostra rete di vendita, una rete forte, una rete con cui abbiamo un ottimo rapporto e che ci rappresenta in maniera molto professionale sul territorio, e poi sicuramente l'altro elemento sono gli ecoincentivi Ford, cioè la decisione che abbiamo preso il primo gennaio di partire con una rottamazione propria, quindi per aiutare lo svecchiamento del parco circolante, che secondo me rimane ancora oggi il vero obiettivo, e per svecchiare il parco bisogna assolutamente aiutare le persone a comprare automobili accessibili, anche automobili a carburante normale, a carburante tradizionale come può essere il turbo diesel o il benzina o il gas adesso in Italia, che sono automobili che rispetto a quelli di 10 anni fa hanno un contenuto di emissioni estremamente ridotto rispetto appunto alle automobili da rottamare e anche un contenuto di sicurezza molto più elevato. La decisione di partire da soli il primo gennaio sicuramente è stata una decisione importante che gli italiani hanno apprezzato e che poi si è sommata agli incentivi statali che sono arrivati 40 giorni dopo. Penso che questi tre elementi in Italia ci hanno consentito nei primi sei mesi di ottenere degli ottimi risultati e di arrivare al 10% di quota in Italia, che in un mercato dove il costruttore nazionale giustamente controlla oltre il 34% del mercato, fare il 10 vuol dire sicuramente avere un risultato straordinario. Ciferri, in questo successo, diciamo così, in un mercato come quello italiano ed europeo, per un grande americano che si è iniziato a ristrutturarsi prima degli altri, conta anche una propria, dal suo punto di vista, conta una capacità di saper interpretare meglio degli altri due giganti più malati americani l'evoluzione della domanda e la specificità del nostro mercato, o è una questione appunto di modelli più azzeccati innanzitutto? Certo che i modelli contano molto, però. Ma io credo che Ford in Italia abbia avuto sicuramente, rispetto non solo sui concorrenti americani, ma tutti i concorrenti, un intervento di ristrutturazione della rete di vendita profondo, radicale, che nessuno ha avuto il coraggio di fare, perché come sempre quando si consolida, lo dicevate prima, per l'industria non si consolida perché significa chiudere concessionari, chiudere stabilimenti, sicuramente è un processo doloroso, però i risultati sono che da 4 anni i concessionari Ford sono quelli che in Italia dicono di essere i più soddisfatti della loro casa, cioè hanno effettivamente un rapporto di partnership che funziona, gli altri molto spesso non lo sono. Questo ha aiutato molto. Di contro devo dire che Ford in Italia mi sembra raccogliere i frutti di ciò che ha seminato, cosa che succede molto meno in Europa e ancora meno in America. Anzi, io direi che se fossi Ford America sarei abbastanza arrabbiato, perché in fondo sono l'unico costruttore americano che non ha chiesto soldi al governo. Guardavo stamattina le cifre. GM ha chiesto la bellezza di 30.1 miliardi di dollari e Chrysler 8.2, quindi non i 3 miliardini di euro che Sarkozy ha poi dato all'industria francese. Beh, di fatto il mercato non se n'è sostanzialmente accorto, in quanto le vendite della Ford nel semestre in America sono calate del 34%, un po' meno di GM che è sceso del 40% e decisamente in America è sceso del 45%, però non è che ci sia stato un riconoscimento dell'americano che la Ford era più sana, il mercato è sceso del 35.1, la Ford del 34.1, quindi direi quasi una delusione. Forse noi siamo molto più addentro al mondo dell'auto e quindi ci rendiamo conto dei rischi che c'erano di comprare una macchina da un'azienda che stava per andare in bancarotta come GM Cagliari, o era in bancarotta. Il cliente normale evidentemente non va così in profondità e continua a comprare le macchine che gli piacevano. Quindi lei dice il cliente normale in realtà non guarda neanche poi troppo a chi prende più aiuti e a chi prende meno aiuti? Sì, direi di sì, questo probabilmente è vero e credo che sia in fondo vero anche in Europa, si guarda molto spesso al... che torna si arrabbierà, si guarda molto più allo sconto che al prodotto. Io non credo che l'amore degli italiani per il gas durerà un giorno più degli incentivi. Questo era un mercato che faceva il 2-3% di macchine a gas, adesso ne fa il 20%. Beh no, l'impatto dal punto di vista degli incentivi è innegabile, quello che dice Ciferri. E sono curioso di sapere dai nostri ascoltatori se davvero ragionano esclusivamente in base a questo e se sia così diffuso tra di loro la totale indifferenza nei confronti di chi prende incentivi da sempre in Italia, non a caso. Ma detto questo, Nobis, un altro secondo di riflessione. Abbiamo visto la capacità di sapere ben fidelizzare, motivare i concessionari che erano uno dei punti deboli storici della ristrutturazione Fiat avviata dal dottor Marchionne, eppure erano diventati uno dei punti deboli della scarsa soddisfazione interna e quindi anche del successo poi della capacità di saper fare successo di venta nella rete organizzativa invece tradizionale precedente della Fiat. Poi la Fiat ha cominciato a incidere anche in questo, ma insomma era un punto debole più che di forza. Oltre a questo, secondo lei qual è la chiave per cui c'è chi riesce a fare meglio in questa maniera così significativa al di là dell'incumbent Fiat, voglio dire, nel nostro mercato? Qual è la chiave del successo? Ma come è stato detto fin qui, le chiavi sono inevitabilmente due, la congiunzione fra due o tre se vogliamo, ma sono connesse. Il prodotto è sicuramente l'elemento fondamentale perché attrae il pubblico. La qualità del prodotto connessa però al prezzo, in sostanza. La gente vuole una macchina bella che costi poco. Nel caso specifico di Ford, come diceva prima il presidente Torel, è evidente che le due macchine, soprattutto la Fiesta della K, vorrei fare una domanda a Torel, la Fiesta ha raggruppato, è una storia antica quella della Fiesta, è sempre riuscita a migliorare. Nell'ultima versione c'è anche una componente di fortuna, questa bisogna pur metterla, perché avere il prodotto giusto al momento giusto per una casa automobilistica non è una cosa che si decide a tavolino alla vigilia di una crisi o quando si percepisce una crisi. Una macchina ha una genesi purtroppo per le case automobilistiche abbastanza lunga e quindi se l'automobile non è stata programmata in tempo utile c'è poco da fare. In questo caso è andata bene, in mezzo a tante disgrazie un po' di fortuna ci vuole. Questo è un elemento. Sicuramente l'altro elemento fondamentale è la qualità della rete e ancora una volta da questo punto di vista la ristrutturazione specifica e particolare che ha avuto in Italia la Ford quando furono costruite, quando fu inventato il sistema delle CMA, che Torel potrà spiegare molto meglio di me, ha portato a un insieme di concessionari imprenditori ben raggruppati, numericamente proporzionati, quindi capaci di in grado di fare utili, perché poi siamo sempre lì, se i concessionari non stanno bene, non sta bene neanche il cliente, non sta bene la casa. Quindi in questo senso la strategia di mercato, di commerciale della casa automobilistica in genere è fondamentale nel coniugare le due componenti, il rapporto col cliente attraverso i concessionari. Dopodiché poi ci vogliono anche i numeri, per esempio parliamo di numeri, oggi la Ford Italia, Torre non l'ha detto, ma avrebbe potuto fare qualche numero in più se avesse avuto un numero sufficiente di K. Oggi per avere la K è un affare. Bene, aspettare molto. Prego? Bisogna aspettare un po', insomma. Bisogna aspettare un po', vedi caso, la Ka è una 500 vestita da Ford, viene fatta nella fabbrica di Tichia in Polonia, in parallelo con la Fiat, e con la 500, in pratica il fornitore è la Fiat. A questo punto è facile avere qualche legittimo dubbio che la Fiat sia un pochino più avara nei confronti di Ford nel consegnare le Ka. Sono piccole cose, ma insomma sono significative. Mi chiedevi dei segreti, le chiavi sono sicuramente queste, quella del prezzo, l'accelerazione di Fiesta, sicuramente l'operazione che ha segnalato Ford, io la vedo così giornalisticamente, si sono visti immediatamente i risultati, partire d'amblè il primo dell'anno quando non si sapeva ancora cosa avrebbe fatto il governo, perché in realtà questi incentivi, noi stiamo parlando dell'ultimo semestre, e gli incentivi abbiamo visto che sono un elemento fondamentale, e sono arrivati tutto sommato, a mio parere, un po' tardino, perché su 6 mesi sono arrivati in buona sostanza quasi allo scadere del secondo mese, perché varati a metà febbraio sono entrati in funzione definitivamente, c'è un minimo di abbrivio, per cui i veri risultati degli incentivi si sono potuti vedere su 4 mesi rispetto a 6. Ford è partita invece, come si diceva una volta, in quarta, anche se è sbagliato, e ha ottenuto immediatamente, con un prezzo estremamente equilibrato e abbassato di 1000 euro, è partita veramente in pole position. Quando poi sono arrivati gli altri incentivi, naturalmente l'incremento è stato esponenziale. Vorrei aggiungere ancora una cosa in riferimento invece al mercato americano. L'amico e collega Ciferri ha sempre una visione tendenzialmente pessimista delle cose, molto realistica devo dire, ma un po' pessimista. Io lì la vedrei un po' col gioco della bottiglia mezza piena e mezza vuota, nel senso che è vero che il mercato americano è quello che è in precipizio da un bel po' di tempo, quindi tutti sono in caduta. Del resto la stessa Europa in giugno ha fatto una crescita, però nel consolidato complessivo il mercato italiano è pur sempre a meno 11, all'interno del quale ci sono le crescite. Voglio dire, in America la Ford ha perso meno degli altri, ma soprattutto la quota di mercato è cresciuta nell'ultimo anno del 2,5%, rispetto a GM, di 1,3% rispetto alla Toyota, che è passata di nuovo al terzo posto, restituendo il secondo posto di Ford a Ford in America, il che, come immagine, forse nei confronti del pubblico conta ancora di più della questione dell'aver preso meno i soldi. Su questo direi che, andando a scavare un pochino di più nel pubblico americano, un po' di attenzione, forse molto più che per gli italiani e per l'Europa, la sensazione di solidità. Gli americani sono pragmatici, quindi insomma la Ford non ha chiesto soldi allo Stato è qualcosa che non si può misurare in termini di numeri di macchine vendute, ma sicuramente come immagine di brand per me ha giocato un buon ruolo, e queste crescite all'interno della diminuzione secondo me lo dimostrano. Io devo poi sottolineare, magari gli italiani sono così di solito molto abili nel conoscere le diverse nuance dei colori dei maglioni di Sergio Marchionne, perché ce ne occupiamo con fin troppa intensità, questa è la mia opinione, sono un po' critico come avrete capito sul fatto che gli italiani pensano solo alla propria Fiat. Alla testa di Ford in quell'anno terribile 2006 c'è secondo me un manager strepitoso, uno dei migliori del mercato automotive mondiale, sto parlando di Alan Mulally, che è appunto l'amministratore delegato e presidente di Ford, non è uno che è cresciuto come Marchionne questo nell'automobile, perché veniva da Boeing, che secondo me lo rimpiange molto, ed è uno che quando è arrivato nel 2006 di fronte alle perdite record che aveva all'epoca Ford, che sembrava quella messa peggio in tutto il mercato americano delle grandi aziende dell'auto, l'auto, ha preso una serie di decisioni radicali, mettendo come collaterale asset per circa 30 miliardi di dollari dell'azienda in una raccolta mega di capitali che all'epoca sembrò una specie di atto di disperazione che preludeva al suicidio. Invece grazie a quello, poi quando è arrivata la grande gelata del 2008, non ha avuto bisogno di inginocchiarsi di fronte allo Stato, e quindi i manager fanno la differenza quando sono capaci di decidere radicalmente le cose. Eccoci qui tornati in studio. Io avevo scommesso con i miei bracci destri qua che sarebbero arrivati degli sms in cui puntualmente venivo accusato da alcuni di voi di mettermi a fare, leggo testualmente, ora anche delle marchette alla Ford. Ma è possibile che alcuni di voi pensino che invece di parlare solo di Fiat, se parliamo di altre case automobilistiche, il problema sono sempre le marchette, come dite voi? No, il problema è che bisogna vedere in ciascuna casa, nel settore dell'automobile come in tutti gli altri grandi player degli altri segmenti di business, bisogna tentare di andare un po' più in profondità su chi va meglio, chi va peggio, eccetera eccetera, invece che parlare male o bene di tutti. E per fare questo bisogna parlare con i manager di quella casa, dei modelli di quella casa. Vi assicuro, non ho alcuna Ford gratis, e piantatela però di avere questa reazione. Impariamo tutti a capire che il mercato è una cosa complicata e bisogna entrare nelle strategie e negli risultati di ogni azienda. Scusate se mi scaldo, ma questa, la cosa di essere, di beccarsi sempre del marchettaro, è veramente una roba che su Radio 24 almeno evitiamocela. Ecco, scusatemi, l'appello anche a una qualità del pubblico. Sono sicuro che il pubblico di Radio 24 è come penso io. Allora, alcune voci di ascoltatori. Francesco da Viterbo. Francesco, prego. Sì, buongiorno. Guardi, ho una Ford, ma è un caso, perché quando ho telefonato ancora non si parlava di Ford, era solamente per dire alcune cose. Ho una Ford perché, prima di tutto, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche ai vostri ospiti. Ho una Ford perché circa 6 anni fa andai in una rete distributiva Fiat, si può dire, volevo fare la stiro, mi dissero la stiro quella lì, non mi diedero nessun tipo di spiegazione plausibile, io faccio il rappresentante, faccio 7.000 km al mese, e insomma andai via un po' a uro, solo Fiat fino a quel momento, andai via un po' così, ti rubate, entrai nel concessionario Ford, volevo farmi la Focus, e mi dissero, no, ma invece della Focus, in un periodo in cui siamo quasi vicini alla crisi, insomma, fatti la Fusion. E io mi feci la Fusion, che è un 1.400, risparmiavo parecchi soldi, quindi loro da un certo punto... L'hanno saputa guidare meglio, lei dice, quindi questa è la chiave. Dato, cioè, soprattutto mi hanno fatto sentire quasi importante, poi logicamente sono un cliente, quindi alla fine cambio la macchina ogni 3 anni, sono importante, penso, per un concessionario. E questo era il mio primo punto. Il secondo punto era, da 100 anni a questa parte, una domanda che faccio un po' a tutti, anche i concessionari, l'automobile è uguale a se stesso, cioè un motore a combustione interna con 4 ruote, le 4 ruote forse sono essenziali, però è un motore a combustione interna. Se noi pensiamo 100 anni fa, quello che era la tecnologia... È cambiata poco, insomma, lei dice, dal punto di vista... Non c'era neanche l'aeroplano 100 anni fa, quindi diciamo che l'automobile è uguale a se stessa da quando è stata inventata, è cambiata pochissimo. Ecco, volevo sapere se c'è nei prossimi 20 anni, che questi sono i tempi in cui penso che si possa risolvere qualche problema, avere qualche novità sostanziale sull'automobile, non sui modelli. Grazie, grazie. Manuel da Monza, prego Manuel. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto una critica per quelli che scrivono gli sms, perché io... No, queste le faccio io da conduttore, abbia pazienza, andiamo alla questione, sennò poi mi accusano di voler criticare il pubblico, non era questo lo spirito della mia osservazione, mi scusi se l'ho interrotta, prego Manuel. Va bene, niente, allora. Vabbè, niente, la domanda della macchina del futuro, io sinceramente per l'uso che ne faccio la vorrei piccola e che consumi veramente poco, perché comunque avere quei macchinoni enormi che consumano una barcata di benzina, per me è una cosa inutile, è punto e stop. Ma poi, nella sua esperienza, adesso io non so che modello abbia né lo voglio sapere, ma consuma, immagino che quindi lei si sarà orientato verso un modello il più vicino possibile a queste sue legittime richieste. Consuma ancora troppo? No, consuma poco, anzi, devo dire che consuma veramente poco, perché tra l'altro è un diesel, per cui io faccio tanti chilometri e devo per forza usare una macchina del genere. Però a me piacerebbe che consumi ancora di meno, perché comunque certo, è un bel risparmio. D'altra parte lavoro lontano, quindi ora che arrivo la benzina se ne va giù subito per quello. Però anche l'idea di cambiare, perché io vedo che sui modelli molto piccoli difficilmente mettono i motori a diesel, anche questo, perché la K non mi sembra, la K è un modello vecchio, per esempio, non aveva il diesel. Benissimo, grazie Emanuele. Alberto da Biella, prego Alberto. Buongiorno a tutti, saluto a tutti. Niente, io volevo fare un appunto su, una, su un intervento di un vostro ospite, in quanto non sono d'accordo sul definire gli incentivi l'unica cosa che ha fatto crescere la vendita di macchine a gas. Vi posso garantire che ci sono due motivi ancora più importanti. Innanzitutto il costo dei prodotti petroliferi tradizionali, che è salito alle stelle, non è diminuito nel momento in cui doveva diminuire esageratamente. Noi abbiamo sempre meno soldi in tasca, noi italiani, e quindi vi posso dire che le macchine a gas, e posso fare portavoce di molte persone, fanno risparmiare decisamente dei soldi. In più ci aggiungo che il fatto che sono stati aperti molti distributori in aree in cui prima non esistevano ha aiutato la vendita di macchine a gas. Poi per ultimo posso dire che è molto importante per i concessionari la qualità dei venditori nella scelta delle auto. Quindi gli incentivi, grazie al governo che li ha reintrodotti, molto importanti, ma da inserire in un contesto più ampio. Grazie ad Alberto. Ciferri, è ovvio che le osservazioni erano un pochino rivolte a lei, all'impatto che hanno gli incentivi. In effetti, se uno considera gli andamenti dei mercati, la reazione dei mercati è venuta in buona sostanza agli incentivi. I numeri dicono questo, e anche le catene delle scelte intertemporali, cioè il periodo in cui hanno iniziato a manifestarsi queste tendenze alla ripresa, danno totalmente ragione per quello che mi riguarda a Ciferri. Ma la questione è, se guardiamo al mercato globale complessivo dell'auto, e quindi nei suoi diversi segmenti, America del Nord, del Sud, Europa e Asia, la questione dell'efficienza energetica, del rendimento, quindi dei motori termici a combustione e così via, quella che negli Stati Uniti viene posta al centro, la rivoluzione verde, il fatto che abbiamo un'amministrazione americana che mette standard di emissioni contrariamente a quelle precedenti, eccetera, quanto davvero sarà il drive del nuovo mercato, o quanto invece la necessità di fare efficienza rispetto all'eccesso di capacità produttiva guarderà soprattutto a risparmi di gestione e realizzazione dei veicoli piuttosto che all'investimento in nuove tecnologie che sono, insomma, ad alta intensità di capitale per avere rese energetiche molto forti nel breve periodo di tempo. Lei che pensa? Ma l'intervento principale americano è quello su cercare di ridurre le emissioni e quindi i consumi. Noi dobbiamo renderci conto che viviamo con un'ottica alterata, e quando noi diciamo la benzina costa questo, gli americani mi hanno sempre risposto: no, la benzina costa questo, cioè in America la benzina costa circa un quarto di quello che costa da noi, e di conseguenza lo sviluppo del mercato non ha tenuto conto del consumo come un fattore fondamentale di scelta, perché da loro la benzina non era un costo drastico nella gestione, da noi lo è sempre stato, quindi per quello l'Europa e l'Italia in particolare si è man mano spinta su delle macchine sempre più piccole, sempre più efficienti. Il tentativo americano è quello di portare verso dei dati di consumo medio europeo, perché rispetto al passato il problema oggi è ridurre la quantità di anidride carbonica che si emette nell'atmosfera, e lì non c'è niente da fare, non c'è neanche la soluzione di grandi alternative. Bisogna consumare meno e bisogna magari usare anche il diesel, che in America è praticamente sconosciuto sulle automobili, e probabilmente le nuove norme americane, che in realtà il presidente Obama ha ripreso a implementare. Le norme di consumo in America sono sempre esistite, esistono dagli anni 70, diciamo che durante la gestione Bush, che era quantomeno amico dei petrolieri, non sono state inasprite come invece erano inasprite in Europa, in Giappone nello stesso periodo di tempo. Per quanto riguarda il bilancio energetico globale, quello è molto, molto difficile da fare e molto discutibile. Sicuramente quello che si può misurare in modo indiscutibile è quanta energia si consuma a usare un'automobile, e si può incominciare a intervenire su questo. I bilanci globali sono poi difficili, ci sono anche grandi discussioni sui biocarburanti. In America si usa molto etanolo, però questo etanolo viene convertendo in il mais invece che da prodotto per alimentazione, prodotto per autotrazione. Quindi bisogna stare anche attenti a vedere poi il bilancio energetico e sociale dei combustibili alternativi, che non sempre è positivo. Nobis, parliamo un secondo intanto di quello che è noto dell'avanzamento del processo di integrazione che ormai è entrato nel vivo tra Fiat e Chrysler, anche perché io devo in qualche maniera tenere conto che c'è una reazione in corso da parte di molti ascoltatori che mi accusano di anti-italianità, perché bisogna solo tutelare il prodotto italiano costruito dalla manodopera italiana, eccetera eccetera. Io non la penso così, mi becco di essere del minoritario. Un parto come quello dell'auto, secondo me, è andato nei guai a furia di sommare tutti i ragionamenti di grandi sistemi paesi che non capiscono che c'è un mercato mondiale e che credono di poter difendere piattaforme e capacità di produttive nazionali. È così che si è arrivati a oltre il 30-35% di eccesso di capacità produttiva. Poi scoppiano le crisi, bisogna razionalizzare, tutti si illudono che le razionalizzazioni vadano fatte negli altri paesi e non in Italia. Io continuo a ricordarvi che oltre il 93% degli utili di Fiat Auto, tornate agli utili, viene in buona sostanza da due stabilimenti sul totale di tutti quelli di Fiat in tutto il mondo, e cioè viene da quelli brasiliani e da quello in Polonia. Quindi io rispetto molto la necessità di difendere la produzione italiana, però se dovessi guardare anche all'utile marginale di Fiat che è tornata grazie a Marchionne a fare utile nell'auto, dovrei dire che sono gli impianti italiani quelli che non solo meno contribuiscono, ma che più pesano, continuano a pesare su Fiat che torna a fare gli utili. Questa osservazione incidentale, ma per consentire a Nobis di dirci qualcosa in più. Che si aspetta da questo processo di integrazione? Si sa che ci sono queste prime riunioni, questi primi gruppi di lavoro tra ingegneri torinesi e di Chrysler. Che si aspetta da questo punto di vista lei? Onestamente siamo, a mio parere, ancora in una fase molto, molto delicata, anzi siamo all'inizio della partita, perché certamente l'immagine, qui il discorso sarebbe lungo e non abbiamo il tempo, però io ero in America quando ero a New York, quando a gennaio, quando è cominciata tutta la grande battaglia, e mi veniva un po' da ridere nel leggere, e questi sono titoli stampati, quindi siamo fuori dalle personalizzazioni, in America si discuteva violentemente anche fra gli stessi democratici di Obama e gli avversari repubblicani sulla opportunità di aprire la strada alla Fiat. Nel frattempo si leggevano i titoli dei giornali italiani che dicevano Fiat compra la Chrysler. C'è in Italia, ma è storica la cosa, c'è in Italia un tifo, per carità legittimo, nei confronti della squadra degli azzurri, però non è sempre calcio, insomma, non è sempre un gioco, e quindi questa voglia di anticipare i risultati è certamente impropria. Voglio dire, essere contenti perché forse succede qualcosa e darlo per fatto non è proprio un modo esatto di comunicare la realtà alla gente. Ora, sicuramente Marchionne, prima si faceva un confronto fra... mi sentite? Sì, sì, vai, vai. Ecco. Si faceva un confronto fra Mulalli e Marchionne. Mulalli viene da un'azienda aeronautica tecnologicamente molto avanzata, e Marchionne ha un altro tipo di esperienza e lo ha dimostrato nel suo genere molto bene, muovendosi con una velocità fulminea, cogliendo le debolezze del sistema americano in quel momento. La General Motors stava crollando, la Ford non si scommetteva un soldo bucato, la Chrysler era la più piccola e c'era uno che così più o meno incoscientemente fra virgolette si offriva per giocare una partita. Ha saputo giocare molto bene, l'operazione è andata in porto, Obama ha potuto vantare il salvataggio di 30.000 posti di lavoro e quindi pronti via. Nello stesso tempo però se sulla carta i conti tornano, perché non c'è dubbio che ci sia una complementarità fra il know-how e i brevetti e la tecnologia disponibile in casa Fiat rispetto a quella di Chrysler, o voglio dire macchine piccole efficienti contro macchine grosse da sostituire o comunque da ridurre in termini di volumi di produzione, è chiaro che l'operazione ha un sapore molto positivo, però adesso bisogna farlo. E quindi i gruppi di lavoro, certo, si stanno muovendo i primi passi, ma il trasferimento di queste, insomma, il completare questa complementarità richiederà un certo tempo e bisognerà quindi vedere, non abbiamo nessuno, ha alcun elemento per poter fare un calcolo di previsione concreta rispetto alle premesse e alle proposte. Gli elementi ci sono, può funzionare, però di qui a raggiungere l'obiettivo che Marchionne ha dichiarato ampiamente, avendo in mente l'operazione Opel e quindi di mettere insieme un gruppo da 6 milioni di unità, senza la Opel siamo ben lontani. E quindi, insomma, diciamo incoraggiamento, ma con l'attesa giusta per capire bene dove stiamo andando da questo punto di vista del merger Fiat Chrysler. Eccoci qui, torniamo con alcune vostre telefonate. Marco da Macerata, prego. Buongiorno. Dica. Vada avanti. Niente, io vorrei tornare, diciamo, al discorso un po' iniziale e non entrare nello specifico tecnico, certo. Perché poi in fondo l'utente prima di tutto sceglie la vettura, a mio punto di vista, dall'immagine, dall'imprinting della vettura. Se Ford ha migliorato le vendite aziendali è dato esclusivamente dall'imprinting che Fiesta in questo momento, soprattutto nella veicolazione giovanile o comunque pseudo tale, dà sul mercato, perché è una macchina fascinosa. Ben venga il designer che ha rivoluzionato tutto il sistema Ford dalla K alla Kuga, quindi ha costruito un imprinting importante, e questo secondo me è corredato anche da altri aspetti, cioè vediamo che alcune case sono tornate a rimettere sul mercato attraverso il fascino che hanno costituito quei modelli, la Mini, la 500, la New Beetle, quindi a mio punto di vista il mercato è dato espressamente da un rapporto d'immagine. Poi, lei dice crisi o non crisi, la cosa fondamentale è avere un buon designer, buone linee filanti, sì, capace di interpretare il gusto trend del mercato. Particolari, ho capito. Perché no, giustamente. Poi si può andare anche oltre, cioè se noi vediamo la Volkswagen nella Golf, la Golf è stata l'antesignana di un mercato, di un prototipo di mercato, cioè da 15 anni è forse la regina del mercato, e nonostante ciò ha provato a fare la Cabrio, ne ha vendute 10, perché? Perché il rapporto qualità, che comunque nella vettura standard era alto, l'immagine, l'imprinting, diciamo, che catturava verso la gente nella Cabrio non c'era più. Grazie Marco, chiarissimo. Lei dice crisi o non crisi, resa energetica o meno, questo è quello che conta. Vito da Brescia, prego Vito. Salve, buongiorno a tutti. Io volevo invece fare un'analisi su quello che è il costo automobile in genere. Cioè, secondo me c'è una grande parte del mercato che vede la macchina come stato symbol, pertanto acquista la macchina perché gli piace naturalmente, e irrazionalmente non fa una scelta calcolata, e infatti vediamo che il costo di esercizio della macchina, che di solito viene venduta dopo 3 anni, è esagerato. Una macchina utensile viene usata per tutto il suo esercizio, per tutta la sua potenzialità. Questo non avviene adesso in un io, periodo di io penso come... se la interrompo per dire che penso che l'osservazione di Vito sia un'osservazione dal punto di vista economico, cioè della gestione dei bilanci aziendali familiari. Ha ragione Vito, cioè non si utilizza l'automobile per quello che è e per quello che imporrebbe il suo ciclo di ammortamento sul bilancio familiare del consumatore famiglia medio. Adesso lasciamo perdere chi lo utilizza come ha una piccola impresa, fa il rappresentante di commercio, parliamo del consumatore familiare. L'osservazione di Vito è un'osservazione, adesso lo faccio concludere, che però la maggior parte degli acquirenti famiglie sembrano non porsi. Come mai secondo lei, Vito? Io chiesi di discutendo con un mio amico che mi diede questa risposta, infatti è una filosofia, dice tu vedi che la gente, le persone non comprano la macchina facendo un calcolo razionale quanti chilometri faccio, cioè una minima parte, la comprano soprattutto gli italiani perché gli piace. È come il bambino che viene messo di chiarissimo, quindi lei in realtà è, grazie Vito, perché lei la pensa un po' come l'ascoltatore che l'ha preceduto, è una questione di farselo piacere, di farsi sedurre, come se fosse appunto non un bene strumentale ma qualcosa che ci dice molto di più dell'amore che vogliamo nutrire verso questo oggetto. Luca da Milano e poi torniamo con i nostri ospiti. Luca, prego. Buongiorno a tutti, grazie. Io volevo fare questo tipo di intervento dal punto di vista tecnologico, ma in questo caso prendo il bacino di tutte le case automobilistiche. Io credo che dal punto di vista tecnologico sia stato un potenziamento di un prodotto che è vecchio di 100 anni, cioè il motore. Io arrivo da uno studio meccanico, quindi ho studiato il motore, ho studiato tutto quello che è anche la storia del motore. Diciamo che c'è un problema di questo tipo, cioè che l'involuzione dal punto di vista tecnologico è all'occhio di tutti. Noi ci basiamo su dei concetti vecchi veramente di 100 anni. Il problema è questo, non è che non si può migliorare questo tipo di tecnologia, ma non si vuole, perché dietro a questa tecnologia c'è il petrolio, quindi c'è un qualcosa che porta tantissimi soldi a tutti quanti, quindi è un indotto, quindi è un cross-selling, chiamiamolo così, il motore, ma di un bene principale che è il petrolio, che è la benzina. Grazie Luca. Luca ha introdotto un altro elemento di osservazione molto frequente e molto radicato nel dibattito, cioè in realtà giudicando la velocità di innovazione delle rese termiche dei motori a combustione che sono centrali, insomma, come elemento propulsivo dell'auto, perché ancora troppo poco c'è ibrido, poche auto elettriche, l'impressione netta è che vi siano interessi impropri, perché altrimenti la rapidità delle evoluzioni tecnologiche in altri settori è molto più intensa. Torrel, quanto queste accuse secondo lei sono fondate? E comunque vede che la maggior parte degli ascoltatori dice: innanzitutto ci dovete sedurre con le linee, perché malgrado la crisi continuiamo a non farci ben di conto, se no ci orienteremo verso modelli diversi. Che dice, che osservazioni fa? Ma innanzitutto il discorso dell'immagine, lo dicevo prima, io dico per fortuna, insomma, anche non solo i bambini ma anche le persone grandi possono sognare, e l'automobile è sicuramente uno degli acquisti il più importante dopo la casa, per cui è un acquisto che deve essere guidato da elementi emotivi, altrimenti saremo tutti dei robot. Detto questo, non c'è dubbio che per quanto riguarda noi il kinetic design, cioè a riferimento all'ascoltatore, ha cambiato completamente l'immagine del nostro marchio e ha dato una caratterizzazione alle nostre automobili, e questo ci ha dato sicuramente un grande vantaggio. Per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia e dei consumi, innanzitutto va detto che la media dell'utilizzo delle automobili in Italia da parte del consumatore privato è nell'ordine dei 7-8 anni, quindi da questo punto di vista non si cambiano automobili ogni 2-3 anni, lo fanno solamente alcune categorie e sono molto limitate, chi la usa molto, i rappresentanti eccetera, ma la famiglia media l'automobile la tiene tra i 7 e gli 8 anni, questo è il motivo per cui gli incentivi alla rottamazione per svecchiare il parco sono molto importanti e funzionano, perché ovviamente ci sono tanti milioni di automobili che girano e che hanno più di 10 anni di vita. Per quanto riguarda invece il discorso sulla tecnologia del motore, non è vero che l'automobile non è cambiata in questi 100 anni. Un motore di 10 anni fa o di 20 anni fa, sempre a combustione interna, aveva un livello di emissioni che sono dell'ordine delle 5, 6, 7, 8 volte superiori a quelle che ci sono oggi. Le emissioni sono state ridotte drasticamente negli ultimi anni, sempre ovviamente utilizzando la combustione interna. Perché? Perché ancora oggi la combustione interna permette un livello di accessibilità per il consumatore finale, permette al consumatore di acquistare l'automobile. Oggi il motivo per cui ancora non c'è una soluzione alternativa alla combustione interna è più che altro un motivo di accessibilità, perché un'automobile ibrida o elettrica ha dei costi di produzione e quindi dei costi per il consumatore finale che non consentirebbero veramente le vendite di massa. E noi sappiamo benissimo che alla fine il progresso c'è solamente quando una tecnologia diventa accessibile a tutti. Ancora non ci siamo arrivati, ma però la interrompo solo per farla riflettere, per riflettere tutti insieme, naturalmente lei lo sa benissimo. Toyota, che nell'ibrido è capace già oggi, e anzi già dagli ultimi anni su mercati anche come quello italiano, di volumi sempre più importanti, e dimostrerebbe non proprio quello che dice lei, o no? Ma non non è, in realtà bisogna guardare bene, perché l'ibrido, per esempio, negli Stati Uniti noi siamo leader dal punto di vista degli ibridi, ma su quali vetture? Su vetture da 25.000 euro in su. Allora, quando saremo in grado di mettere una versione ibrida su una vettura da 10.000 euro, 12.000 euro, adesso penso al mercato italiano che, come dicevo prima, il 60% del volume è fatto da segmenti SAB e B, quindi vetture compatte da città, lì avremo fatto un passaggio. Oggi la tecnologia ibrida messa su un'automobile da 10 o 12.000 euro purtroppo non è accessibile. Ciferri, ascoltando insomma le promesse, gli impegni degli amministratori delegati che oggi sono impegnati a dover giustificare gli incentivi da una parte e i massicci aiuti di Stato dei contribuenti americani, pensiamo al mercato americano, dall'altra, sembrerebbe che l'accelerazione invece sulla qualità energetica dei propulsori avrà una accelerata notevolissima. Crederci, non crederci, lei che dice? Io credo molto poco, ma nel senso che sono già caduto 15 anni fa nella prima trappola dell'auto elettrica. E quindi non ci ricasca. Com'è? E quindi non ci ricasca oggi. E quindi cerco di non ricascarci, come ho cercato di non cascare nell'idrogeno. Allora, possiamo parlare di filosofia per tutto il tempo che vogliamo. Poi, se invece dobbiamo parlare di un prodotto industriale che deve consentire alla gente di muoversi con una certa autonomia, il petrolio rimane, nel bene o nel male, il concentrato di energia più facile da trasportare e più economico che si possa avere. Tutto il resto è accademia. Vogliamo parlare dell'auto elettrica? Perfetto. Il 72% dell'elettricità prodotta in Europa è a origine di combustibili fossili. In altre parole, il giorno che noi porteremo il 30% dell'autotrazione a elettricità, aumenteremo il consumo di petrolio e di carbone per fare l'elettricità delle centrali elettriche. Cioè, questo è il bilancio alla fine. Poi ci possiamo dire che è bellissimo andare nel centro di Milano o nel centro di Roma con una macchina che non emette nulla. Sarà poi la centrale elettrica a gasolio alla periferia di Roma, alla periferia di Milano, che butterà nell'atmosfera una certa quantità di CO2 che era più o meno simile, se non uguale, a quella che la macchina avrebbe emessa nel punto precedente. Direi che la grossa differenza rispetto alla bolla dell'auto elettrica di 15 anni fa era che all'epoca l'input americano era ridurre l'inquinamento in alcune aree, soprattutto nella California. Quindi all'epoca, in fondo, il problema, se per fare l'elettricità in California si inquinavano i poveri messicani, non gliene fregava nulla a nessuno. Oggi il problema globale è quello del riscaldamento dell'atmosfera e quindi dell'emissione di CO2. Quindi bisogna andare a intervenire su ogni singolo motore in un modo veloce e rapido. Ed è vero che i dati di consumo di un'automobile di oggi non sono drasticamente diversi da quelli 10 o 20 anni fa, ma primo, come diceva giustamente Torri, c'è un livello di emissioni che è non paragonabile e molto spesso per far emettere meno sostanze nocive si mettono dei tappi al motore, quindi lo si castra in prestazioni. Certo. E secondariamente c'è stata una crescita della sicurezza, quindi del peso del veicolo, che la gente si dimentica. A me è capitato recentemente di guidare un maggiolino prima serie, ed è un'esperienza, perché noi, siccome abbiamo seguito di modello in modello l'evoluzione dell'automobile, non ci ricordiamo com'era una macchina 30 anni fa. Infatti. Non ci ricordiamo che cosa significa entrare in curva e cercare di usare la frenata con quattro freni a tamburo. È vero, no, da questo punto di vista... Non c'è dubbio, io devo ringraziare i nostri ospiti Gaetano Torre, Luca Ciferri e Claudio Nobis, e ha ragione chi vi ha mandato di voi un messaggio in cui dice, ma però certo, pensare che al Museo dell'Automobile di Parigi c'è un'automobile Renault che fa 100 km con 1,5 litri del 1992 fa venire qualche sospetto, e i sospetti ce li terremo. Io rimango però contro gli incentivi pubblici, scusatemi, nella mia minoranza, ribadisco il punto di vista della versione di Oscar. Ringrazio in regia Giorgio Mattei, Gloria Guerrero e Laura Faggin. La linea Giornale Radio, a domani.